La montagna incantata. Il gesuita Nafta è un personaggio di spicco. A lui Thomas Mann affida la rappresentazione delle contraddizioni più acute della nostra modernità. Durante una merenda con altri protagonisti del romanzo, questo terribile gesuita tesse l'elogio della cristianità delle origini e dice che a loro ripugnava il pensiero dell'automoltiplicazione del denaro, che chiamarono usura ogni speculazione e che dichiararono ogni ricco ladro o erede di un ladro. Volevano che la produzione si regolasse secondo il bisogno e condannavano la formazione dei grossi beni patrimoniali. Date queste premesse, Nafta non può fare a meno di rilevare che, testualmente, tutti questi principi fondamentali risorgono dalle rovine centenarie nel movimento moderno del comunismo. E siccome l'unica forza rimasta ad opporsi alla corruzione borghese capitalista è quella del proletariato mondiale, ecco che per il gesuita Nafta la dittatura del proletariato diventa una sana esigenza politico-economica dei nostri tempi. Nel proletariato è assunto addirittura lo zelo divino di Gregorio Magno e nella sua vittoria sul mondo sono riconoscibili i segni della trascendenza e ben venga dunque il bagno di sangue. Il terrore che realizzerà il proletariato è finalizzato alla salvezza del mondo, ad una figliolanza divina senza Stato e senza classi. Che si vuole di più per dimostrare che Chiesa e comunismo vanno a braccetto, eh? Chiacchiere di tanti anni fa. Nei giorni scorsi qualcuno, più di uno, si è scandalizzato perché un altro prete, certo Pierangelo Vassallo, non gesuita, sulle pagine presumibilmente polverose della rivista di studi Vichiani ha sputato tuoni e fulmini contro tutta una serie di cattivi maestri. Per la precisione ce l'aveva su con Cacciari, con Vattimo, con Severino e Quinzio, rei a suo dire di diffondere paganesimo e culture esoteriche. Fra l'altro, dando in pasto agli studenti il pensiero di certi pendagli del nazismo come Heidegger e Nietzsche. Io non so se costoro contribuiscano davvero alla diffusione del paganesimo, ma in compenso sono del tutto certo che, come tutti i filosofi che si rispettano, contribuiscono molto alla diffusione della stupidità e della subordinazione al potere e dalle sue forme storiche di esercizio. Quel che mi ha colpito della ringa di questo Vassallo, pertanto, non è certo questa sua iniziativa di resa dei conti tutta interna all'oppressione, ma bensì le conclusioni a cui giunge, che invece non hanno fatto impressione proprio a nessuno. Conclude allora, conclude questo Vassallo dicendo che non c'è dubbio che dopo la caduta del comunismo l'unico baluardo in difesa della ragione sia rimasta la Chiesa Cattolica. Da un lato mi ha ricordato quel cardinale che giorni or sono, all'annuncio che le prossime elezioni si sarebbero svolte durante la Pasqua ebraica, ha avuto il coraggio di dichiarare che proprio perché lo Stato italiano è laico non può permettersi di indire le elezioni né durante la Pasqua ebraica né tantomeno durante quella cattolica. Come dire che quando vogliono loro le parole possono significare esattamente il contrario di quel che usualmente significano. La Chiesa è baluardo della ragione, è il nuovo secolo dei lumi che ci aspetta. Dall'altro lato non ho potuto che riandare con il pensiero alle tesi di Nafta, il gesuita maledetto della montagna incantata. Con la caduta del comunismo ci rimane solo la Chiesa Cattolica. Il sodalizio dunque non soltanto era in atto, ma è addirittura dato per scontato. Ci sarebbe parecchio da discutere sull'argomento se non fosse che purtroppo questo povero Vassallo va nel frattempo rassicurato. Stia tranquillo, Stia tranquillo. All'orizzonte della carneficina che ci aspetta, del prossimo terrore cui questa carneficina aprirà la strada, non c'è solo la Chiesa Cattolica, no. C'è tutto un pool di integralismi e fondamentalismi che avanza compatto contro quel che rimane del libero pensiero e della consapevolezza collettiva. L'unica speranza di chi vede avanzare questa mostruosa repressione sotto le insegne di una chiesa di tutte le chiese, l'unica speranza è che in un momento di defiance strategica, perdano tempo nello sbranarsi fra loro.